Capitolo 9. Venezia. 12 giugno 1545. Il trambusto da basso mi fa saltare in piedi. Urla, sedie, capovolte. Qualcuno sale le scale di corsa, agguanto il pugnale. La porta si spalanca, gli occhi terrorizzati di Marco mi fissano. Che succede? Gran disgrazia, signore, terribile. Vuole ucciderla. Son sicuro che vuole ucciderla. Lo sproloquio continua in veneziano. Non capisco niente. Che succede? Il muro, signore mio, il muro è di sotto, con due dei suoi, vuole punire donna Demetra, Dio santissimo, l'ammazza! Lo spingo fuori dalla stanza. Chi è il muro? Tiene le puttane di calle dei bottai, dice che donna Demetra gli ha rubato le ragazze. Il resto diventa incomprensibile. Scendo le scale. Nella taverna sembrano passati lanzichenecchi, tavoli ribaltati, sedie spaccate. Le ragazze si stringono in un angolo terrorizzate, tre uomini in piedi. Uno tiene un coltello alla gola di donna Demetra. Cinque passi tra me e il più vicino. 30 anni al massimo, un bastone acuminato in mano. Il più grosso blocca donna Demetra per i capelli, la lama sulla pelle. Il terzo è sulla porta. Mi vedono. Il grosso dice qualcosa in veneziano. Faccia stolta, assassina. È il capo. Quello con il bastone si fa sotto. Un colpo inesperto. Gli blocco il braccio e gli spacco il naso con una testata. Barcolla indietro, sorpreso. Raccolgo il bastone, guardo negli occhi il muro e sputo per terra. Ghigna storto. Getta donna Demetra sul pavimento e le grida qualcosa, puntandole l'indice contro. Fa per avvicinarsi. Gli rompo il bastone sulla spalla e con il moncone lo colpisco allo stomaco. Si accuccia. Gli ho fatto male. Estraggo il pugnale e glielo infilo in una narice, la testa bloccata per i capelli. Un'occhiata agli altri due. Le mani sul naso grondante, fuori gioco. Il secondo sta già pensando di svignarsela, lo dice il suo sguardo. Marco! Il ragazzo dietro di me. Santi Dio, signore, lo volete ammazzare? Digli che se lo rivedo da queste parti gli stacco la testa. Il ragazzo sbofonchia qualcosa in veneziano. Digli che se tocca donna Demetra o una delle sue ragazze lo vado a cercare e gli stacco la testa. Marco prende coraggio e ci mette la rabbia che gli manca. Spingo il muro verso l'uscita. L'ultimo slancio glielo dà un sonoro calcio nel culo. I due compari si infilano dietro di lui. Donna Demetra si alza, sistemandosi il vestito e l'acconciatura. «Vi ringrazio, signore. Non potrò mai sdebitarmi per quello che avete fatto. È sufficiente che mi diciate chi ho picchiato, donna Demetra, e saremo pari». Raccoglie una sedia mentre le ragazze la circondano d'attenzioni e Marco le porge dell'acqua. Il mulo è il tenutario dei bordelli di Calle dei Bottai. E vi odia tanto? Si scioglie i capelli. Alcune delle ragazze che lavoravano per lui hanno deciso di venire con me. Non erano soddisfatte del trattamento che il mulo riservava loro. Paga scarsa e cinghiate, non so se capite. Annuisco. Posso immaginare, non aveva l'aria del gentiluomo. Donna Demetra sorride. I gentiluomini possono fare anche di peggio, signore mio. Ed è per questo che il vostro intervento di oggi non basta a prevenire tutti i rischi del mestiere. Capisco. Finché ci sarò, allora, donna Demetra, spero vorrete accettare i miei servigi.